che te l'hai messo a posto bene, trovati i finali originali. E infatti il mio problema era quello, siccome non riesco a sollevargli più di questi VAT, che comunque sono già accettabili, però secondo me ho il dubbio, no? Dice che sono originali, io li ho anche contattato di nuovo, metto no, dice poi non si preoccupi, se ha problemi, dice ne rispedisco altri due, quelli li può tenere, no? Gli ho detto, non è quello il discorso, io voglio sapere prima di mettere mano alla radio, anche perché se avessi avuto un altro strumento lo avrei... non ce l'ho, sto andando, ho 80 o una tantina di watt, che non sai di assorbimento, boh, 8, 10 ampere, non di più, io mi ricordavo che assorbiva di più. No, scusa già, no, Anto, 80 watt anche il mio li dà, perché questo è originale e non è mai stato toccato, ma via nuda, l'ho aperta io, nel senso che te l'ho spiegato, no, quella resistenza variabile del Michigeli, ho aperto e basta. Infatti sono rimasti quelli, però anche il mio era 80, ma come assorbimento sono intorno ai 12-13 ampere di assorbimento, anche 15. No, il mio dai 12 non si muove, però i watt ci sono, perché lo sto controllando con lo strumento, quello nuovo, quello buono, cioè non è che ho il coso, l'H Marasut come si chiama, il... Vabbè, può essere, non so, il mio arriva su 80 watt modulati, cioè modulati di portante, non modulati, non si muove, va picchi positivi eccetera, però non sarà più di 80, e l'assorbimento è intorno ai 15-18, non di più, quindi non lo so. Va bene, vado a portare il cagnone, se ne serve già, perché tu hai detto quando muore il mio cane vado a trovarlo e il cane lo faccio io, e beh. E anch'io ti rinvidiassi. Basta che c'è chi vicio, no, a casa non ne voglio più già, a casa ho finito. Là può far pure un canile. Ma chi lo vuoi far pure prima che c'è un cane, là c'è un campanco. Vabbè, come io cazzo, non sto bestemmiando, ho detto quando non ci sarà più, allora vado a trovare il mio veterinario e io faccio il cane. Lo sai che i veterinari castrano pure? Cantano? Castrano i cani. Portate lo crati a me. La futtidine. Ho detto se ti incastra cosa può cambiare, la futtidine. Hai fatto un cane, oggi mi trattene, oggi la futti. Ah, infatti, mi mangio anche 2000 grani. La fai lo stesso, me. Allora, com'è la di mangi? vuole venire, assaggiate, ecco, buona. Sì, buonissima, la grande, grazie. Dai, raga, già. Uia. Quando non ci sarà un problema, veramente, credimi, però si vive e si muore, purtroppo è così. Dai, riprendi tu Gianni e fai girare bianco per me, a dopo, ciao a tutti. Oh, ehi, ciao Luca, anche a te, io non ti avevo sentito poco fa, ma ti ho sentito adesso. KK, poi vabbè, io ogni volta che vedo fai buon ponte su Facebook, il gare che muore, il cazzo mi viene la malinconia, vi credi? Non vi posso pensare che possiamo ricordare, sono come affezionato. È una cosa brutta, Luca l'ha passata da poco, avanti. Allora, volevo dire a Claudio, se ci troviamo in paradiso, andiamo a piazzare solo ed esclusivamente antenne, ok? Antenne Mantova 1, Mantova 5, Mantova 1, boh, finito! E poi le antenne per la VU e per le U, la X30, la X50 e te che ballacche, va bene Claudio? Da lì già arrivi bene. Io non mi chiedi, solo di poli, non mangio di più di pinidina. Beh, adesso che avete lasciato un po' di bianco, date possibilità anche di entrare agli altri, cazzo, sembrate le corse, cazzo, quando parlate alla radio, boh. Mi facendo la vittima. No, facendo la vittima, cioè se uno vuole entrare, non avrà modo di entrare. Io ho pazientato, ho aspettato e poi ho schiacciato ormai, però, insomma. E te la fai con me, arrivi più forte di me. Non sto parlando con nessuno, ancora accesa, ma è cosa buona e giusta di lasciare anche un pochino di bianco anche per gli altri, non è che deve mollare uno subito l'altro. Comunque, fate come meglio credete. Adesso non ci parlo più, no? Hai capito che devi stare zitto, sì? No. Adesso non ci parlo più. Aspetta un attimo invece che voglio comprare una cosa. Vedi se cambia. Guarda così. Ma guarda così. Allora, hai un picco positivo, quando dici guarda così vai di una tacchetta in più, oltre il 20. Però dovresti provare a portarti multa se vuoi che cambi qualche cosa e poi provare a modulare. Primo passaggio. Secondo passaggio. Primo passaggio quasi niente, il secondo passaggio invece si è aumentato di una tacchetta, non per 22. E la modulazione comunque è sempre buona. Un po' compressa. Questo va bene, non il suo microfono. Si sente che sta spingendo. Però sta andando, va. Non il suo microfono, questo qui è un microfono di baracchino. Sì, però se ammassi la preferisco, la modulazione. Disegnare, giustamente, si appena più alto, ma... Sì, e poi invece si abbassa la modulazione. Chiudo il bicchierino, vedi un po', Non ho fatto niente. Vabbè, la lasciamo così, dai. A mio parere è anche così più chiara, Poi senti anche gli altri, però mi pare più chiara, Gianni. No, ok, volevo solo sapere se c'è la differenza, infatti quindi mi sta spingendo, è un problema di modulazione, sicuramente legata al microfono. Esatto, adesso per dire hai fatto un bel passaggio, la tacchetta è chiara e quando hai il picco massimo vai a toccare i 9,22, se no rimane a 9,20. E dipende anche un po' dalla timbrica di modulazione, ecco. Chi è che sta fischiando? Non lo so, ma noi stavamo fischiando sopra di me. Infatti vuole sapere chi è da fischiare. Come ti fischi che si possono fare, proprio qui viene a fischiare. Lascialo fischiare, lascialo, prega te. Ma comunque. Vabbè dai, va bene, quindi il risultato sta dando. Forse l'assorbimento è così, magari questi fili l'assorbono meno, dai il gioco. Dai, fischia adesso, va bene, ciccio, fischia. Non svegliare il cane che dorme, hai capito? Fischia adesso finché le corde boccali, perché finché ti facciano fischiare. Porca miseria. Ah, vero, boh, sei tu. Dici tu, boh. vabbè, qua abbiamo un pochino salito, vedi? Un pochino appena salito. Però gli avevo voluto toccare lo Smith io, vabbè che comunque tu mi hai detto a fare vado 9,20, 9,22, all'incirca i segnali si equiparano, però mi sembra... Sei comico questo Smith. A te cambio. Luca. Eccola qua. Sì, vabbè, vedi un po'. Guarda, io così per dire senza parlare. Ora, 9,10, picchi 9,20. Beh, allora, questa qua sono 25 watt di fisso, diciamo, portante multa, e poi 70-80, forse anche qualche cosina di più di 80 in modulazione. Vabbè, all'incirca tipo questo, dai, non ci arriva comunque questo qui a 80, adesso sta... me ne ha fatto abbassare, sta andando 65 su per giù, infatti sono 9, neanche 10 ampere di assorbimento. Guarda se cambia qualche cosa, aspetta, vabbè, ma tanto sicuramente, aspetta. Ora, ha cambiato tu? No, non ha cambiato niente, ti ho visto che sei sceso, salito per un attimo, ma eri sempre dentro quella cerchia, quindi non sei cambiato tanto. Però mi è sembrato che la modulazione si sia rinforzata. Così? Guarda, adesso è appena più watt, dai, anziché 25 sono 30 watt modulati, cioè 30 watt fissi e modulati oltre la 80-90. Sì, secondo me si è rinforzata la modulazione, perché ti sento più bene, non... però ti sento più arzillo. Sì, già può essere, vabbè, diciamo che io la tenevo sempre così, è un po' di tempo, forse stavo facendo un po' ciò, l'ho abbassato, e poi me ne sono dimenticato, vabbè. No, ma va bene, sì, per come ti sentivo prima. E come mi sentivi tu che facevamo fatica a sentirci. Poi bisogna vedere quando piove se il QRM. Andare. No, vabbè, guarda, io ti posso anche, guarda, aspetta. Aumentiamo ancora un po', guarda. così si è salito un pochino, l'ho vista la differenza, però non è, come si dice, valutabile, perché no, lo sai, no, che per aumentare di un punto devi raddoppiare o triplicare. Si è visto che si è aumentato, però la modulazione sta iniziando a sentire le conseguenze. Sì, lo so, infatti dovrei abbassare appena appena la modulazione, ma non mi interessa, guarda, abbasso qua. Ecco qua. Adesso dovrei essere al punto giusto ora. Sì, comunque considerati che ti sta ascoltando con una cosa, cioè magari qualcuno che ti ascolta col baracchino ti sente compresso, però con questo qui ti sento benissimo. E comunque ci sono molti picchi positivi, si vede che sta, che la radio sta andando. Sì, lo so, io ho rilanciato qualcuno, con cazzo non ho voluto entrare, non so se c'è qualcuno, Luca o Gianni, dai, avanti. E li ho chiamati tutti e due, Gianni. Io ci sono, io ci sono drummenti. No, veramente ti ho chiamato, eh. Sì, vabbè, non c'è problema, tanto stavo qua al telefono, sto scherzando. Stavo sfogliando un po' su internet, stavo navigando. Andava, che dire. E quindi adesso sei col 140 rifatta nuovo. Vabbè, rifatta nuova, una parola grande. E vabbè, te l'hai sistemato là. Sì, qualche cosa, gli ho preso tutti i finali, qualcosa intorno, ma per farla nuova devo cambiare tutti i condensatori e sicuramente è un lavoro che non lo farò. Vabbè, fanno la loro età e sono tutti usurati i componenti adesso. E intanto sono sicuro che non mi durerà molto che me lo prendo. Vabbè. Se trovi da vederlo, vedilo. Io sono fatto così, già mi stacco subito dalle cose. Non sono di quelli che si innamorano, che si affezionano. Io se trovo magari domani un affare, lo do, poi magari ne cerco un altro. Non so. No, io ho sempre gli stessi di apparati, dai, la verità, ne ho aggiunto qualcuno ma non ne ho venduto. Ho venduto solo uno, un Midland che ce l'avevo sull'armadio, non lo stavo più usando. E l'ho venduto perché tanto non ne facevo nulla, per lasciarlo fermo. E vabbè, se proprio non li usi. No, io mi sono tenuto il 3006, che è quello che ce l'ho da una vita. È uno dei vecchi che davvero non ho mai dato. E poi cos'altro, non me lo ricordo, gli altri la maggior parte li ho dati tutti, io ce ne sto guardando intorno e li vedo, ma sono tutti quanti chiusi dentro lo scaffale. Ne ho tanti, ma intanto non li usi, ma cosa te ne fai? E quando parli con uno, poi con gli altri cosa fai? Rimangono lì. Lo so, ma se poi ti si rompe uno, c'è l'altro di riserva, invece se non virai, rimani senza parlare. Vabbè, ma sempre di riserva, quindi è sempre il mio. Vabbè, tu sei anche non riserva. Fai la musca, no? Sì, fa. Ma a me non frega niente, io, sinceramente, se la radio mi piace, me la prendo, quando io voglio la uso, non poi. Averne né più né meno, non voglio fare assemblamento, nel senso che mi piacciono quelle che ho, perché mi piacciono, sono non avrete usato, non c'è niente. A te lo ricordi quando eri innamorato del Pluto? Yes, e però ti dirò la verità, è una radio che mi piace, ma poi era l'ho trovata nuova, nuova esternamente, poi dentro era martellata, cosa c'entra, però era bella perché era nuova esternamente, e quando è stata toccata, che andava bene, allora mi è piaciuta ancora di più, dopodiché mi è scesa dalle palle. Perché succede così, io lo stesso, l'ho sempre fissato, mi compro il Saturn Eco, l'ho preso, gli ho dato una sistemata, una lucidata, e l'ho venduto subito. Diciamo la verità, che se io fossi stato un pochino più furbo, ma così è fregare le persone, e l'avrei venduto, ci avrei guadagnato, non è che... Beh, quello sì, ma perché non hai... ce l'hai ancora per te? No, l'ho regalato a Fabrizio. Perché poi alla fine, te l'ho detto io come funzionano quegli apparecchi. Ci hai entrato? Ho regalato Fabrizio perché, insomma, ho detto magari può recuperare qualche fine funzionava, era solo quel problema lì che mi è stato svistava. Ma guardate chi è rientrato. Sì, ha pisciato. Davvero, gli è andato al veterinario? Sì, sì, tutto a posto. Te l'ha controllata la pipiolina? Aveva il culo. Ma tempo per fare la popolo, glielo dai. Fattala, tutto ha fatto, tutto. Cambiato anche il pannolino pulito, adesso lo stava pulendo la mamma. Vai ti. È un casotto. Io mi ricordo, andavo col cocker in casa, quando pioveva, per dire, si puliva i piedi nel tappeto, lì da sola, perché mamma solo la faceva entrare. E invece il mio è un pochino più... Il mio aspetta fuori. Quando sta piovendo aspetta fuori, per non entrare, aspetta fuori, io vado, prendo il rotolo del suo Scottex, quello grande, e asciugo tutti i piedi e pulisco con le salviette e le entra. Vieni qua. Toro, vieni. Vedendemi. Sono i cat gasinare dovati. Così, purtroppo, vabbè, purtroppo io ho avuto tanti cani, ma diciamo che quella, la preferita che era in casa era il cocherino. Il cocherino è un po' viziato un po' tutti noi. Finita lì, è finita la festa, non abbiamo fatto entrare altri. Qua non se ne parla neanche di entrare il cane, almeno per il momento, credo che non entrino, perché già stanno fuori, ne hanno spazio, fuori, a voglia. Non entrano neanche quando piove. In casa mia, qua. Dentro, non ce l'hai uno preferito, va? No, si arrangia, se ne cerca, no. Io no, ma c'ho l'inglese, ho cominciato a comprare i nocciti e poi un pastore tedesco. Sì, il pastore tedesco già me lo ricordo, sempre quello lì o un altro? No, questo è un altro. Sì, tu stai parlando di Ercole, figurati, quello era un maschio. Questo adesso è una femmina, ma mi sembra che ha 5 anni, 4 anni e mezzo, 5 anni. Non di più, però non entra dentro casa. Ah, il pastore tedesco era un bel cane per campagna. Non ci hanno fissato con questi pastori, il pastore del Caucaso, il pastore fornese, il pastore della minchia. Vabbè. E quindi già. Tino, poi quella la 48, venduto la vivi? No, ce l'ho ancora qua a casa, ma non so neanche se volendo. No, sinceramente no. L'ho messo nella scatola con i tuoi tappi, con tutti i pomellini, tutto originato, fatto bellino e conservato lì. Quando sarà, se mi rompo le scatole, se voglio fare un bel regalo ce l'ho già pronto, se no già rimane lì. Non pensavo che l'avessi venduto, che la dovevi mandare su internet, roba del genere. Ah, vabbè, già è uscito bellino perché era tutto nuovo. Sì, sì, non è come il mio è un po' differente, però vabbè, in accoppiata gli avevo messo anche il CTE, quindi il prezzo era abbordabile, solo che giustamente c'è crisi. Ma era modificato quello? Sì, 120 canali e il watt mi sembra che arrivava intorno ai 18, se non ricordo. Cioè, va bene, va bene. Ne tengo conto, se devo piazzare in macchina qualcuno, ne tengo conto. Ma premettere che però non c'è ecco, non ne ho fatto fare la cosa ecco. È modificata 120 canali e basta, e va. Vabbè. Cosa ti stavo dicendo? Vi devo solo decidere, perché se mi decido lo piazzo, ma non riesco a decidermi, non so dove metterlo. Guarda, ci fosse stata un pochino più di attività, anche io l'avrei ripiazzato. C'ho ancora l'antenna attaccata, non mi interessa. Non c'è attività, non ho giusto quattro chiacchiere così la sera, quando esco al lavoro o quando vado, o è troppo presto, e quando rientro è... non c'è voglia. No, sai cos'è? Che prima io viaggiavo, quindi bene o male, quando andavo a Porto Torres ritornavo, eccetera, lo accendevo. Ma adesso, adesso non sto più lavorando, quindi cosa ne vuoi in macchina? Non c'è mai nessuno, il fatto è quello. Ce l'ho perché ho detto capita qualsiasi cosa, una calamità, una cosa che c'è bisogno del baracchino in macchina, ce l'ho. Non voglio più indacciare, ma può succedere. Sì, può succedere. Automatica. Un bel impianto ci avevi già in macchina, peccato. Ma vedrai che prima o poi già lo fai il passo. Certo, non sei come un amico nostro. Ah, oddio. Quello... già mai capito? Ovviamente un altro, ovviamente un altro io. Cazzo di uno, cioè è venuto, non mi ricordo dove avevo una riunione dell'Ari, cazzo, la macchina nuova, ritirata la mala il giorno prima, l'indomani ci aveva il buco a centrotetto. Sai che non mi ricordo che stai dicendo però. Dai, che anche CB era riamatore. Cambia pure la macchina. Ma sopra, su? In alto, Firighetto alto. Vicino a me. Sì, ho capito. Ma tu immaginati, la volta che c'aveva il Cayenne, è durato 2 giorni e 60 anni. Ma come? Domani buco. Io ho bucato l'Audi del vicino. No, io con l'Audi... praticamente avevo fatto davanti a centrotetto, no, davanti dove, siccome la mia c'era in coda l'antenna, in coda avevo messo un'antenna piccolina VHF e davanti avevo messo la frusta nera, quella mollata, no, dove c'è davanti, però dove di solito sono le antenne della radio e boh. Mentre poi ho detto, ma io cazzo, annaggi bucato il butto, ho messo il cerchietto, la carrozzeria me l'ho fatto verniciare lo stesso colore davanti, dietro ho rimesso l'antenna della radio e mi avevo comprato una macchina da battaglia, una Saxo blu, guarda, è finanza blu, e avevo messo al centro l'antenna nera VHF e davanti quella mollata nera, uguale, precisa, identica a quella di loro. Tu immaginati che viaggiavo da Perfugas, quando facevo retiro per la Aghe, Chiaramonte, no? C'erano sempre i carabinieri, polizia, tutti mi salutavano e io alzavo la mano. Sì, a me succedeva, allora avevo la bimba però, nella Toledo, blu lo stesso. E dire a Luca cosa ci è successo in giro, avevamo io, Luca Franco Califfo, già, eravamo lì da Ramo, io abitavo in via Pasquale, allora, eravamo da Ramo, sono arrivato da, non mi ricordo che cacchio ero, l'avevo chiamato Franco, ma tu che siamo sotto casa tua, tu mi stai arrivando, e ho parcheggiato la Xasso in doppia fila, non mi hanno visto, sono salito a casa a portare la roba che c'aveva in macchina. Cazzo, tutti, allora voi non ci guardate finanti, mi raccomando, il cazzo lo scontrino ci guardate finanti. Ma cazzo è andato a guardare finanti? Cazzo, non vi la macchina, la civetta. Tavighi, c'è la macchina mia. A me una volta, tornando da Pinangelo, si sono affiancati i carabinieri e mi hanno fatto il saluto militare. Non mi ricordo se ero con Luca Manicopio o con Chiero di loro, però ci siamo messi tutti a ridere in macchina. Perché avevi l'antenna grande. E allora? Ma quella stazione, mi dillo a Luca, era uguale, precisa, identica, la stessa antenna, centrotetto ci avevano loro, avevo la Comet, la B10M della Comet, che adesso non ce l'ho più, l'ho regalata, e nera, piccolina, centrotetto, e davanti, dove c'era l'antenna della radio, avevo tolto quella, avevo messo quella nera, uguale a quella di loro, con la molla, cazzotti, era precisa, identica, ci mi salutavano, tutti in blocco, oh, a tagliare la mano, poi un giorno mi sono passato proprio davanti lì alla chiesa di Saccargia e c'avevo proprio il microfono in mano, ehi, cazzo, tutti già bene, ciao! Già succedeva, poi anche la gente ti prendeva, una volta uno ha detto, atta la macchina dell'autoscontro, io mi sono guidato, la gente, se l'avessi avuta da dentro l'avessi vista. No, guarda, a me con quella macchina, a me addirittura, gente che insomma mi conosceva, non amici, perché gli amici sapevano il lavoro che facevo, gente mi conosceva, finanzieri. Io finanziere, cazzo lo faccio a finanziere, faccio secondo te. Da sbirro. Animale da sbirro. Però la macchina era uguale, Luca già l'aveva vista. Poi le piaceva molto, sai perché a Luca le piaceva un bel quella macchina? Perché c'era i cerini blu e neri, interista, capito? La mazza ne varia. Lugarie. Dimmi cosa c'è? Sono qua, mi sto guardando il telegiornale. Già mi ricordo di quella macchina, bella, poi era tenuta a me, roba nuova. Era nuova, sì. Matteo Giulio, stasera abbiamo la salattossa. No, poi sì. Stasera Ronaldo suona la carica. Vabbè, saluto a tutti. Ciao Gianni. a Tino, a Luca e a Claudio. Oh Gianni, che volevo dire, lo sai, una volta Massimiliano che diceva che tu entravi sul canale dei 10 metri, ti ricordi? Tanto tempo fa, qualche annetto fa. E aveva ragione. Sai dove ti sento? Ti sento a 27.750. Ti sento. E Santiago 4, così. Però la modulazione è abbastanza chiara, bassa, bassa ma chiara. Lo sai già. Riprendo io, scusate, dai. Ciao Giulio, che ci viene a casa, dai. Devo mollare. No, Massimiliano, lo diceva Dore all'avverde, ma col coso entravo, col toccai. Non so con quale radio. Ciao Ottino. Roma te ne sei andato perché sono entrato io, Monello. Non lo so già, ti sento, io ero lì con un amico in quella frequenza e sentivo che c'era una modulazione bassa bassa, ma c'è la propagazione e invece eri tu, sentivo 4, una cosa così, radio 1, dai, però chiara, abbastanza chiara. Io qua 27.075, non è questa la frequenza, scusa. Non so, appunto, questo è tra le 10, ma tu vedi sul canale 70, praticamente tra 69 e 70, ti puoi immaginare. Poi, se ad esempio qua sul 10, se mi metto sull'11 non ti sento, o sul 9 che è vicinissimo, non ti sento da nessunissima altra parte. Ti sento lì a 27.750, sì. Sì, 750, se ricordo bene. E ti dico subito, parla e ci vuole un attimo e ti dico esattamente la frequenza. Non so cosa dire. Non mi hanno mai detto nulla di questo apparecchio che andava a fuori. Claudio, prova a verificare anche tu a vedere. Io ho già verificato e non ti sento. Mi è molto asciutto. Ma non te ne farò una malattia. Non è niente. Non è fuori la radio, può essere un'armonica, ma niente di grave, a tutti i dini già va bene lo stesso. E lo sai cos'è? Che con Giulio le antenne si vedono, probabilmente anche il fatto della potenza delle antenne, che si vedono e da quel problema. Questo è il Galaxy? No, questo è quel Magno. Magno, ma un po' tosto, pensavo fosse il Galaxy. Allora, io col Magnum modificato, anzi, non era un Magnum, sto sbagliando, che mi avevano prestato con una radio modificata, stavo ritornando tutto il condominio. Io mai e poi mai in vita mia ho disturbato il condominio. Cazzo, non c'è andato il campanello. Ma qua che è successo? A me? Tu, ma perché? Non è possibile. Hai qualche problema qua nell'impianto? Tu figurati un incompetente. Mai avuto problemi. Io ho un idrato bottente. Ma perché problemi nell'impianto? Cosa sta succedendo? Cazzo, se ti sento nel televisore? Ma sì, stai scherzando davvero? Ma no, non sto scherzando qua, ti sento nel televisore. No, ho già capito cos'è, non ti preoccupare che non mi sentirai più. La giubiliata, si accade e tornerà al bagone, immediatamente. Sì, può succedere, beh certo, c'è qualche armonica appunto che sfugge. E vabbè, dai. Però bisogna vedere quanto deve stare parlando il Magno in quel momento. Cioè, l'avevi messo alla mano al massimo, forse sarà per quello, non lo so. Cosa sta dando? 20 watt da modulati, non è che dia chissà quanti watt, 20 watt modulati c'ha adesso. Sì, ok, no, ma non è niente però, non è niente, sono voluto solo dire così per pura curiosità, niente di particolare, infatti arrivi praticamente 27.750, pensa che il canale 70 è 27.555, l'altro invece il canale 69 è 27.450, no, 400, costa insomma 10 di meno mi sembra, dai, non mi ricordo, comunque fra un canale e l'altro ci sei tu in mezzo, a 27.750. Ero con un amico, ma trattiamoci con la frequenza, non ci può sentire nessuno, ma quando devi vedere, guarda che la frequenza è di tutti, e vabbè, dai, dai, ti devo dire una cosa, e vabbè, fai così. E siamo andati lì, cioè me l'ha data lui la frequenza, e stavamo chiacchierando 10 minuti lì, niente di particolare. Vabbè, comunque niente, non succede niente già, perché non ti sento da nessunissima altra parte, infatti ho provato anche in 10 mesi, eccetera, non impri, sono lì, sì, sono in quella frequenza. Ma c'è qualche varco che magari si unisce fra me e te, sarà quello, che ne so, boh, vai già. Ma anche da te che ci vedono, Giulio, hai sempre detto che io ti arrivo più forte di tutti, probabilmente è l'antenna che ci vede con la tua. Vabbè, appunto, sono, magari sono l'armonia, no, arriva anche il segnale, arriva Santiago 4, già, arriva Santiago 4, si cade anche un pochino il segnale, c'è, però già è una bella importante e sostanziosa, insomma, è una bella trasmissione sostanziosa. Ma allora, non ti preoccupare, niente di particolare, tutti dimmi. Te l'ho detto io così su, solo per pura curiosità, ho già, niente di trascendentale, ci mancherebbe. Va bene, vai, infatti ho voluto controllare, vediamo se senta Claudio o se sento Attino, non li sento, un altro non li sento. Pensare che io con questa radio, anche se mi sposto di un canale, non sento più nessuno, Per cui, ma per dire, è strano, perché mi sono sposato di 50 canali, c'è 60 canali e lo sento. Capito? Ma era solo una piccola coincidenza, niente di più. Dai, Claudio. Ehi, ehi, in realtà va 27.705. Ma si è trattato il telefono, ci vuol dire che cosa? La gente è in ascolto, non pensare che non ci sia. Ma non c'avevo lo scanner inserito, non so se avrei sentito. Io non lo sento Gianni a 27.705. Io Gianni l'ho sentito a casa da Buonane Maritore, ma stavamo provando 9.40 in 10 metri a 28, 300, non ricordo sempre, 305, 310, c'era lui parlando, ma arrivava a 9 più 10 però contro che 5 a 24. Infatti poi si è incazzato, dice, cazzo, ma non può parlare lui qua, no, sta parlando, vedi che la sto chiamando e non mi risponde, non sta parlando qua, c'è qualche problema, un attimino, aspetta, rilassati, perché lui era sempre nervoso, sempre incazzato, aspetta un attimo, lo chiamo e glielo dico, infatti ti ricordi già, te l'avevo chiamato. Praticamente quella radio modulava proprio in 10 metri, una cosa allucinante, ma non solo in una frequenza. Se tu facevi da 28 per dire 200 a 28-500 sentivi sempre a lui. E infatti già l'ho fatta fuori subito, però quella è veramente starata, veramente una radio che non si poteva usare. Qua non lo sento io Gianni, ho provato, ho girato, ma non lo sento. 750 per le spugne passava. Claudio, 27 750, non 705, 750. 750 non è neanche un canale, perché 755, quindi eri già nel canale alfa. E se te lo sto dicendo che è il 69 e il canale 70 e lui è in mezzo lì. Infatti, poco fa te l'avevo detto, sì, sul canale tra il canale 69 e il canale 70. Ma vabbè, comunque non importa, a tutti dimmi, avanti già. Ehi da, ehi vabbè, sono cose che succedono nelle migliori famiglie. Specialmente quando la radio non è tante, c'è sempre quella che magari... poi può darsi che sia anche il tuo che sia fuori frequenza, che magari riceva cose che non deve ricevere, e anche quello può essere, tutto può essere. Ma io non penso di disturbare, solitamente non mi hanno mai detto niente. Lo sta facendo adesso con te, forse perché anche le antenne si vedono, non lo so. da vedere, da, cambiamo discorso. E se no mi viene la paranoia e me lo vedo. Ma anche io ti vedo, amico, l'antenna là sul tetto, non è un problema, è un problema di taratura di radio, non è niente di che, vuol dire l'ultima armonica, l'armonica appunto del canale 10, regiona 27.750, non è nulla di grave, e che non sarà in tutti va vedendo a 27.750, sulla biglia e luci. No, e poi è basso, è bassissimo, sentiamo 4, radio 1, 2 massimo, perciò no, non darebbe fastidio, in ogni caso non darebbe fastidio, comunque, no, assolutamente no, va bene così, no, non c'è problema. Già, non può essere spostato questo, perché io lo sentivo né a Pino e né a Claudio, che hanno diverse potenze dalla tua, per cui insomma evidentemente fra me e te c'è un bel barco e dunque riescono a vedersi queste due frequenze così in maniera un po' sporadica, però diciamo che si vedono, ecco, tutto lì già. C'è il varco, perché anche col PMR tra un palazzo e l'altro riesco a prenderti fondo scala. Se per dire mi sposto appena appena non mi senti più, quindi il varco c'è, come se c'è tra un palazzo e l'altro probabilmente risulta proprio all'altezza di casa tua. Esatto, già, però non c'entrano niente le antenne, minchia. Segnale ci può entrare, certo che c'entra. Se tu con il segnale gli arrivi forte è più probabile che ti mandi spurie. No, non c'entra niente, ti ho detto. Assolutamente. L'elettronica non fa parte di questo tipo di sistema, l'antenna non c'entra niente, è una caratura di radio in trasmissione, ok? Tu sai bene che ci sono i sottomultipli di trasmissione, non so se lo sai, quindi può darsi che un sottomultiplo del tuo trasmettitore abbia leggermente uno sfruttamento e vai a toccare quella frequenza, non c'entra niente, né visure né contromisure, ok? Allora io con Antonello che siamo attaccati, Roberto Quadrato, mi sentono in altri canali, no, non c'entra niente, le antenne a distanza non c'entra niente, è una taratura e taratura di radio. Sbagliando sto, Giulio? Sì, ma è così, in effetti è così, basti pensare solo una cosa, ad esempio, tanto per fare un esempio, una volta si parlava che il canale 5 era micidiale per le TV, eccetera, no? Perché? Perché sommando la quadratura della frequenza si riusciva ad entrare nelle frequenze appunto nel televisore. Ed è quella dell'interferenza, magari cambiava il canale, quella frequenza di un altro canale non era quadrato, perché ad esempio non so 54 108 e così via, lo Gianni, e puoi arrivare in prima, seconda e terza, anche in cinquantesima armonica, tanto per dire, no? Cioè quando si moltiplicano le frequenze può capitare che una frequenza di un apparato possa entrare così in un ricevitore qualsiasi, in questo caso allora il televisore. E probabilmente la stessa cosa adesso, capito? Quando la frequenza, la moltiplicazione di quella frequenza di quel tuo baracchino evidentemente ha una piccolissima spuria insignificante, questo bisogna sottolinearlo, insignificante, e riesce ad entrare vicino ai 10 metri in pratica, perché siamo già a 27.750, siamo alla soglia dei 28 mega, no? Sicché siamo vicino ai 10 metri. Ecco quello che volevo spiegarti già. C'è anche Tino e Antonio, dai, vediamo un po'. Tino, ripreso. Vedi che non si è stato attento, Tino c'è gente a casa e si è allontanato, Antonio non so che fine abbia fatto, Antonio, mi sembra che Antonio si è allontanato, non c'è fa niente già, no, ti fa la cieca mentale che è distanza, antenne, insomma non ti è mai capitato di sentire, no, passa al canale, che in quel canale faccio TV, e si parlava proprio tempo fa del canale 5, andiamo al 5, no vai all'8 che nel 5 faccio TV, è una cosa così, capito? Sono sottomultipli delle frequenze di trasmissione che possono avere uno spostamento ma di qualche hertz, di qualcosa che vai a toccare l'ultimo. massima frequenza che può essere anche 27805, 28500, dipende, ma non è... Non c'entra niente, l'antenna, la potenza, no, non è così la cosa, è diversa. L'abbiamo già studiata questa cosa. Se tu considera che la Mantova lavora sotto multipli, quindi 7, 14, 21, 28, fa tutte le bande, non di certo ci può andare in trasmissione, ma in ricezione le riceve tutte, anche con ottimi segnali. Perché? Perché lavora sotto multipli, capito? E prende, fa girare e cambia. Risonanza, bravi, cazzo, vabbè, no, ti arrabbiamo, gioco di mitigato. Io la patente l'ho giubilata 30 anni fa. No, io... Ma li ha fatti di gioco. Io la mia ho presa nel 90, volevo rinnovare, ma l'ASL è bloccata. Io nel febbraio del 66, cioè che 54 anni fa, tu puoi immaginare, l'ho rinnovata tre mesi fa l'ho rinnovata, perché mi era salute in marzo, ma c'era pure lo scivolo per causa del Covid, e l'ho rinnovato da poco, 3 mesi fa praticamente, di in via Pasqua, dai, alla Formula 1 di via Pasqua, è qua. Sì, no, io viene mille volte. Io l'ho presa, la differenza che abbiamo noi degli anni, uguale, precisa identica, io l'ho presa febbraio 1979, quindi nel 78 non l'ho potuta prendere perché ero militare, come ho finito il militare l'ho presa nel 79. Sì, risonanza, esatto, risonanza, è proprio quella. Caro Gianni, Estigai, va bene, riprendi e fai girare. Ma poi che mi interessa una cosa, Giulio, quando te l'hanno rinnovata, cosa ti hanno messo, timbro, qualche cosa? No, assolutamente. Per 3 anni, perché ho superato i 70 anni, per 3 anni, perciò i 75 anni, per 3 anni, e poi al prossimo rinnovo, che saranno quando avrò 81 anni, se sarò vivo, allora 2 anni. In base all'età vengono dati gli anni, capito? Sì, quello lo so, però stavo dicendo, mettono un bollino, qualche timbro, qualche cosa, non lo fanno solo via telematica. Sì, sono via telematica, no, non ti mettono niente nella patente, nulla, con la patente tu puoi guidare qualsiasi macchina abilitata per la B, io ho la B o no, o anche quella della moto, ma quella ce l'ho addirittura ancora prima della macchina, si può immaginare, perché almeno 3 anni prima, 3 o 4 anni prima di quella della macchina io ce l'ho, perché quella della macchina io ce l'ho esattamente presa nel 1966, febbraio 1966, praticamente 54 anni, e la patente della moto ce l'avevo già almeno 3 o 4 anni prima, perché avevo la moto, no? Avevo, per cui, pure cosa è successo? Che ho versato la moto, mi sono comprato la macchina, perché nel frattempo avevo preso la patente della macchina. Questo l'avevo fatto esattamente a Quinacciolo, vi ricorderete, via Giugiaciuli, c'era un negozio dove vendevano le moto, e poi successivamente ha venduto anche macchine, non so se l'avete conosciuto quel negozio, dietro, proprio dietro al fornitore di via Giugiaciuli. No, io lì ho conosciuto sempre un caccia e pesca e basta. No, cosa ti volevo dire, Giulio, non siamo capiti. Io per dire, se adesso rinnovo la patente, se voglio sapere quando mi scade, mettono qualche, perché c'è una dicitura di scadenza, no, nella prima patente che ti danno, non ti mettono nulla per iscritto. Sì, ti metto, la patente scade il giorno del tuo compleanno. Ad esempio, io compro gli anni in aprile, il 29 aprile, e mi scade. E fra 3 anni il 29 aprile, capito? È così, funziona così adesso. La scadenza della patente è sempre il giorno del compleanno. Sì. Ti mandano a casa dal Ministero dei Trasporti un tagliandino adesivo che va attaccato alla patente. Ma tu hai ancora la patente di carta, c'hai già? No, io ce l'ho quella, no, c'ho l'altra. No, ma sto dicendo, nella prima patente che mi hanno dato, quella che mi hanno cambiato, c'era la scadenza, infatti il 20 ottobre la scadenza della mia patente, però dico, quando tu la rinnovi poi metteranno la data di scadenza quando la devi rinnovare, o devi calcolarlo tu dopo quanto devi andare. E te lo sto dicendo, scade, io a me me l'hanno rinnovata per 3 anni, perché ho superato i 75 anni, perché dopo i 75 anni te la rinnovano per 3 anni, capito? Dopo i 50 anni te la rinnovano per 5 anni, dall'età della prima patente, sino ai 50 anni 10 anni, dai 50 anni in su 5 anni. Poi 3 anni e poi a 80 anni 2 anni e così via. Poi dopo 80 anni non lo so, e che scade? Sempre c'è scritta la data di scadenza, certo che c'è scritta nella patente, dietro c'è scritta. Anni, scade il giorno del tuo compleanno. Il giorno del tuo compleanno, mi sono schierato? Ma l'hai capito già, te lo spiego io. Scade il giorno del tuo compleanno. Con la data di scadenza, quello e basta, non volevo sapere altro, il resto lo so, non è che non lo so, volevo sapere solo se mettevano un timbro, ecco, tutto lì, adesso me l'ha spiegato, capito? No, non le mettono timbro, cazzo, te l'ha detto Antonio, timbro non le mettono, io quando l'ho rinnovata, cosa succede? Tu vai che c'è la patente scaduta, la dai a loro e loro te la ritirano, ok? Ti chiama il medico, fai la visita, sei idoneo, il medico ti rilascia il foglio di idoneità che vale 30 giorni, entro 30 giorni devi guidare con la patente scaduta e con quel foglio appresso, ok? Cosa succede? Prima che scada il foglio, il Ministero dei Trasporti ti manda a casa una busta con un tagliandino piccolo piccolo, rosa, fine, dove tu lo prendi e lo attacchi dietro, c'è la scadenza, hai capito? Ma cosa si dice? Cosa si dice di tu? A me mi è fatto così, non so gomacco e non dico vauri. Se a te te l'hai fatta diversa è che sei di giusto. 15 giorni, quando è arrivata, sono passato così per caso, anzi loro mi hanno detto venga fra 15 giorni per ritirare la patente, che ancora la preparano, no loro. Sono andato invece qualche giorno prima ed era già pronta, però me l'hanno data dentro una busta dove era in procinto di partire tramite postino, tramite poste, per arrivarmi a casa. Invece non c'è stato bisogno perché io ho anticipato il postino e praticamente non ho pagato i 5-6 euro di consegna, questo non li ho pagati. Se invece me l'avesse portato il postino a casa avrei dovuto pagare 5-6 euro, adesso non mi ricordo quant'era esattamente la cifra. Avete capito com'è adesso? Io ho capito perché l'ho già fatta. A Sorso è diverso, a Sorso le consegnano subito, capito? Cos'è che è diverso? Cosa si ritrelli? Dimmi Franco. Perché non è così come stai dicendo tu, perché l'ho fatto da poco. Non te la ritirano neanche la patente vecchia, te la lasciano, ti danno un foglio per guidare 30 giorni, hai ragione, però ti danno la patente nuova, non un tagliandino attaccare dietro la patente, non è vero, ti mandano direttamente la patente nuova. Ragione. Funziona così, tu vai alla scuola guida, la scuola guida ti scatta una fotografia, ti chiede 100 euro e ti dà il giorno per poter andare a fare la visita. Quel giorno lì, poi, il medico chiaramente ti visita, ti fa leggere, tu se sei idoneo, tutto a posto, e te ne stai già andando, ti dai fuori e li consegni a quello della scuola guida. Quello della scuola guida ti dice, vieni fra 15 giorni per ritirare la patente, perché pensano tutto loro. Se invece vuoi farlo tu in un altro modo, allora devi andare alla motorizzazione a ritirarla, però spendi un pochino di meno. Ma per il tempo e basta, anziché spendere magari 100 euro ne paghi 80 per dire, no? Ma per 20 euro vanno a me andare alla motorizzazione a perdere tempo, quando la scuola guida che è il suo lavoro ci pensa loro, io non faccio altro che passare lavoro, intanto ho il foglio provvisorio che posso ugualmente guidare, e allora la danno loro direttamente. Mi sono spiegato? Giulio, dopo 3 giorni mi è arrivato a casa, a me mi è arrivato, ho pagato 5 euro e mi è arrivato a casa, dopo 3 giorni che ho fatto la visita. C'è di se non parlate tutti, non parlate tutti assieme, che state parlando in 7. Ok, adesso parlo io. Franco, nessuno ti ha detto che me l'hanno ritirata. Quando tu entri, buongiorno, devo fare di nuovo la patente, documenti, bim bum bam. Ma la buona è la patente in Antarabanca, ma in Busciacca era della buona. Ho capito, però Gianni ha fatto una domanda precisa, ha fatto. Cosa mi danno? Un bollino a attaccare o cosa mi danno per conto della scadenza? Niente, non gli danno niente. Mi rinnovano una patente, è ovvio che al medico gli deve dare la patente vecchia per come documento. Mi rinnovano la patente, dopo 3 giorni gli arrivo a casa, se è idoneo. E paga 5 euro, paga. Dopo 3 giorni che gli arriva la patente a casa, bubaccia! E gli danno la patente nuova. Allora. Voi dice della Pristuria, io la patente ce l'ho già nuova, non avete capito quello, io ho già la patente nuova, volevo sapere, adesso questo qui è il secondo rinnovo che faccio, volevo sapere solo se mettevano un timbro di scadenza dietro la patente, quello volevo sapere, nient'altro, la patente ce l'ho già nuova, già da quel dì. Gianni, no, non ti danno niente, ti ridanno un'altra patente. Ah, così è. Quella precedente non serve più, ce la sto dicendo, che fanno la fotografia per darti poi la nuova patente, con la nuova scadenza. Cosa? Ti danno un'altra patente nuova e basta. Ti scade, il giorno del tuo compleanno ti scade. Io ero riferito a quella di carta, Franco, si è entrato e va con la burottinizzo, io ero riferito a quella vecchia che ci avevamo prima, tanto è vero che già hanno detto c'hai ancora quella di carta, perché in quella di carta prima mandavano, come ha detto Antonio, il tagliandino da attaccare dietro, io l'ho rinnovata, è chiaro che ogni rinnovo me la danno nuova, è normale quello, capito? E a buono per uno ti codisci, a socio la consegna di qui andava, a me ci siamo passati quasi 15 giorni, perché il foglio di donatà del medico vale 30 giorni. Prima della scadenza sono andato anche io, ok, perché mi hanno telefonato, mi ha detto guardi che è arrivata la patente, le mandiamo a casa o passa lei? Ho detto no, passo io, sono passato e me l'ho ritirata. Vabbè, voi vi attenti la denuncia, a me in 3 giorni mi è arrivata la patente, poi pagavo i diritti. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo, non lasciando mangiare. E te lo dico io perché ti hanno consegnata, perché la città è più piccola, capito, e quindi fanno più in fretta. Sassari è grande e quindi c'è più posta da smaltire e allora ci impiega più tempo, è normale, no? Più grande la città e più ci impiega la posta. Già, tu vai con quella vecchia, le lasci quella vecchia e ti danno quella nuova. Mi sono pochi discorsi da fare, non ve ne più bollini. Io l'ho riferito a quella vecchia, quella che ho anche io, che me ce l'ho ancora perché non me l'hanno ritirata, ed è quella in carta della prefettura di Sassari, non della motorizzazione civile. Queste che danno nuove sono tutte della motorizzazione civile. Te l'ho detto, ce l'ho già un anno la patente nuova. Quello che volevo sapere è se sulla nuova mettevano un timbro, punto, tutto lì. Prese di vedere un ciaramento, boh. E che non ti comprendiamo quando lo vedemmo. Te la danno nuova, praticamente quella non serve più e ti fanno la foto come ha detto Giulio e ti fanno la cosa nuova. Quindi ti deve ritornare e arrivare a casa. O ti arrivo a casa o vai tu a ritirartela. Saluto e vado a cenare, dai, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Gianni, quanti ce ne sono in ascolto. Sì, beh così, è plastificata, è scritto dietro la data di scadenza eccetera, va bene. Ciao a tutti, chiudo, ciao, vai già. Ciao, ciao Giulio, ci sentiamo. Comunque io ho pagato 70 euro a grattacielo, vai lì che ti fanno pagare meno la prossima volta. Ciao Giulio, ci sentiamo, avanti Claudio. Allora hai pagato più di me, perché ne ho pagato 60. Io in via dei Mille, all'autoscuola Olimpia, pago 60 euro, vado sempre lì, c'è il medico, c'è tutto, fai tutto lì, capito? 60 euro pagato. Dipende dalla scuola, dipende, infatti mia moglie deve sapere quando l'ho fatta qui davanti a casa, io ce l'ho ogni volta del fronte alla scuola guida, no? Ne ha pagato 80 e io ne ho pagato 20, però solo che mia moglie l'aveva fatta già un anno e mezzo più o meno qua, se poi c'è stato un aumento, io sono andato in periodo di conflitti anche. Va bene, dai, non fa niente, guarda, quello non è un problema. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Gianni, riprendi qua. Ciao, ciao Giulio, è prossimo, no? E comunque già, infatti, dipende dalla tua scuola. Avanti Antonio Bombolo, fa entrare Antonio Riserva, rilancia Antonio Riserva. Appa, adesso lo rilancio subito. Quanto tempo fa l'hai fatta qua? Guarda che da poco hanno aumentato le tariffe, sono 100 euro con la guida e 60 giù da Federici a Grattacielo. Te lo sto dicendo perché lo so per certo, poi la patente scade sempre il giorno del tuo compleanno, generalmente è così la patente nuova. Ok, avanti a tu. Antonio si è allontanato. Sì, lo so, anche la mia scade il 20 novembre. Io sono un mese dopo Gianni, il 20 novembre scade la mia, sì lo so. No, io l'ho fatta l'anno scorso, no, 2 anni fa l'ho fatta. 2 anni fa, capito? Quindi evidentemente il prezzo era quello. Non lo sapevo che è aumentato, comunque ho pagato 60, adesso vediamo se devo pagare 70 o se devo pagare 80. Anche se per 10 euro in più io rimango dove sono, perché conosco il medico, conosco la tua scuola, conosco a tutti. Capito, ho preso la patente mia figlia lì. Avanti, già, riprendi. Sì, vediamo un po', Antonio, ci sei? Già ci sono, già. Allora, se volete vi faccio un po' di quiz, almeno ci divertiamo a vedere se siete ancora in grado, va, un pochettino, va. Vai, che noi ce l'abbiamo già preso la patente, quando lo devi dare l'esame? Appena mi faccio la visita agli occhi, che sono bugie gaunoccio. Ah, vero? E non ci vedo bene, no, già. Non si è fatto fare la visita, fai agli punti che paghi poco, la chili. Sì, sono tutta la rete, ma purtroppo devo farmi la visita, una cosa un po' seria. Non me ne so, cioè, magari no, lo so, se tardo io, no, un occhio no, non ci vedo bene. Quindi devo ripetere tutto, devo ripetere la visita solo medica e basta. Le guide stamattina, cioè tra ieri ho provato, ne ho fatto 4, promosso, ne ho fatto un altro 3, promosso, stamattina ne faccio uno, ne ho sbagliato uno in più, 5, poi ne ho fatto un altro e sono 4, promosso. Sono già pronto per l'esame, ma cagatemi, ho sbagliato, che non mi ricordavo. Perché prima l'esame ce li fasi 3 e ti bucciavano. Antonio, le guide le stai facendo? Non le puoi fare, finché non passi la teoria non le puoi fare. Funziona così. Sì, ma prima erano 30 domande, adesso 40 domande, che è diverso. Grazie, via. Piano piano, manco la patente di altri di più. Via. No, non lo sapevo che le guide non si potessero fare. Vabbè, piano piano, dai, l'importante è che te la prendi, sta bene questa patente, almeno sei autonomo anche lavorando, ti prendi la macchinetta, puoi uscire con la tua compagna, fatti i fatti due, senza fare a piglia tram, pulma e triche ballacche. Portato la ricane già? No, ancora no, ma lo porto alle 8:30, sono sceso anche dopo pranzo, alle 8:30 lo porto. E adesso lo porto fra un po', saranno le 8:20, altri 10 minuti e poi vado. Vai così, allora non è più come prima, c'è l'applicazione nel telefono adesso, devi studiare da lì. Vabbè, ci sarà quel quaderno a domanda risposta, quello lì. C'è Guida e Vai si chiama, sopra il cellulare. Capito, è il studio da lì io. Cioè via telematica per l'esame. Allora, ciao, no, quando studio io, le domande qua, si chiama, sul cellulare ce l'ho, si chiama Guida e Vai, si chiama il programma. Ma scusa un attimo, anche Marco se la sta prendendo, ma sta studiando dal libro. È la stessa cosa di avere il libro, così è. Marco c'è il libro, sta studiando dal libro, Marco. No, io c'ho questo Guida e Vai. Guida e Vai, mi sono già prendava, è l'applicazione. Guida e Vai, così è. Sì, allora. Il signore raffigurato preannuncia la possibile trovare in prossimità di animali vaganti sulla carreggiata. Ed è vero ciò. E dimmi che cosa vuol dire triangolo rovesciato. A preferenza. Rallentare e all'occorrenza fermarsi. La precedenza è un triangolo rovesciato, dare la precedenza, cosa si dice? Ma precedenza che cosa vuol dire?